alla festa, petturutu, e vidi una cosa bella, amadunnella, amammarella. Gioia che alligrizza su sti giorni de bellizza, pur cielo sono e canta, Calabria mia, de tia mi vanto. L'aria fresca settembrina e la gente s'avvicina, porta iure e pecurelle, tutta adornate e zagarelle. Chi ni canta e chi ni suona, chitarra, l'organetto, tamburri a ciaramella, e chi ni balla a tarantella. Calle pizza quando mai da su mondo chi ne guai, Santa Madre Paradiso a tutti porta poi un sorriso. Da lontano su finuto alla festa petturutu, e vidi una cosa bella, amadunnella,